Questa notte è troppo fredda, persino per me. Chiamo starmene in silenzio nella nebbia e respirare e fare finta di fumare. Questa notte è troppo fredda, figurarsi per te. Chiami stringerti i capelli dentro i guanti di tua madre e fare finta di invecchiare. Ma pensarti mi fa ancora quell'effetto, quell'effetto della prima sera. Quando volevi andar via in mezzo a tutta quella gente, inevitabilmente finire come sempre a parlare con gli altri. Non è gelosia, ti ho detto un'altra bugia soltanto per non litigare, anche se l'amore strappa lacrime. Ma so chi sei. Che dopo tutto è paura del buio, che ti fai rossa e distogli lo sguardo. Se devi chiedere scusa, ma tanto noi saremo poi comunque vada persone giuste ma della storia sbagliata. Pensarti mi fa ancora quell'effetto, quell'effetto della prima sera. Quando volevi andar via in mezzo a tutta quella gente, inevitabilmente finire come sempre a parlare con gli altri. E non è gelosia, ti ho detto un'altra bugia soltanto per non litigare, anche se l'amore strappa lacrime. Strappa lacrime.